La partita delle provinciali in Veneto ed Emilia-Romagna è una medaglia a due facce. La faccia del Veneto è praticamente tutta di centrodestra. A parte il comune di Padova, il PD rischia di subire un cappotto. Anche la provincia di Venezia è a rischio. Anche la storica roccaforte rossa di Rovigo potrebbe passare, e sarebbe un evento da segnare sul calendario, all'alleanza PDL-Lega. Paradossalmente, ma non troppo, la lotta più interessante è quella interna al centrodestra. Daniele Marini, direttore scientifico della Fondazione Nord-Est. Il confronto è fra una Lega che aspira a diventare il primo partito in Veneto e la nuova formazione del Popolo della Libertà. Il tutto si gioca da un lato nell'oggi, nel contesto attuale, cioè nel rinnovo delle amministrazioni, ma una sua partita più a medio termine che riguarda le prossime elezioni regionali che saranno nel 2010. Di fatto in Veneto la Lega ha messo la freccia e punta a sorpassare il PDL. Se così fosse, la candidatura di un leghista alla presidenza regionale sarebbe praticamente sicura. In Emilia invece il dominio del centrosinistra è ancora solidissimo. Sulle provinciali non si attendono stravolgimenti, ma ci sono, oltre a Bologna, due elezioni comunali che creano agitazione nel Partito Democratico. Marco Sacchetti, caporedattore dell'agenzia Dire di Bologna. Sono due punti di delicatezza, Reggio e Forlì. Forlì perché il PD ha un candidato nuovo, uscito vincitore delle primarie contro ogni pronostico. E a Reggio Emilia perché c'è una candidatura che si presenta come civica e sostenuta dall'UDC, ma di fatto è frutto di una guerra interna al PD e della candidatura dell'ex sindaco Spaggiari contro il sindaco attuale. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore.